Italia in controluce. Buongiorno a tutti, sono le 13:33 minuti e 25 secondi, nuovo allarme della Corte dei Conti, questo è il tema di Italia in controluce di oggi, in studio Daniele Biacchessi. Gli aumenti del prelievo forzano una pressione fiscale già fuori linea e favoriscono le condizioni per ulteriori effetti recessivi. Questo è quanto ha detto il Presidente della Corte dei Conti Giampaolino, che alla inaugurazione dell'anno giudiziario ha sottolineato varie cose, ha parlato del problema della corruzione sistemica. Secondo voi ha ragione la Corte dei Conti, il peso del fisco in Italia favorisce o può favorire la recessione? Siete d'accordo che uno dei problemi più gravi, almeno lo avvertite, è la corruzione sistemica del nostro paese? 349-238-6666, i vostri sms, le vostre opinioni che poi naturalmente leggeremo. In diretta da Roma, dalla Corte dei Conti, Alessandra Schepisi. Buon pomeriggio Alessandra. Sì, buon pomeriggio Daniele, ed è sempre un bilancio molto atteso quello della Corte dei Conti in apertura dell'anno giudiziario, quest'anno più che mai importante perché cade a poche settimane dal voto, un'analisi impietosa quella della magistratura contabile che è inevitabilmente anche un giudizio sulla politica economica dell'ultimo anno. La cerimonia si è conclusa circa un'ora fa, il capo dello Stato non ha partecipato per una improvvisa indisposizione, un comunicato del Colle parla di lievi sintomi influenzali che non dovrebbero, ma il condizionale ancora d'obbligo, pregiudicare gli impegni di domani a Milano. Presente invece il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Catricherà, il guardasigilli Severino, il ministro del lavoro Fornero. Come sappiamo il fisco è il tema centrale di questa campagna elettorale, dalla Corte, come dicevi anche tu, un grido di allarme sulla eccessiva pressione fiscale che può produrre effetti recessivi a rischio di avvitamento della nostra economia, una implicita bacchettata al governo sugli ulteriori aumenti del prelievo tributario nel 2012, un fisco che, dice il presidente Giampolino, va redistribuito in modo più equo, e la magistratura contabile sottolinea anche la necessità di puntare sui fattori in grado di favorire la crescita. Sentiamo allora un passaggio della relazione di Giampaolino. La simmetria temporale tra gli effetti restrittivi prodotti dalle ripetute manovre di riduzione del disavanzo e l'impatto positivo sulla crescita degli interventi di sostegno dell'economia e delle riforme genera un equilibrio fragile, con il rischio di una rincorsa incompiuta degli obiettivi di finanza pubblica. In un periodo di tempo breve e con l'urgenza di corrispondere alle richieste dell'Europa, i margini limitati di riqualificazione della spesa pubblica hanno reso necessario dunque un ricorso ad aumenti del prelievo tributario, forzando una pressione fiscale già fuori linea nel confronto europeo e favorendo le condizioni per ulteriori effetti recessivi. Ecco dunque le nostre domande, le vostre risposte che iniziano ad arrivare. Se ha ragione la Corte dei Conti, ha ragione il Presidente, il suo Presidente che questa mattina ha parlato di allarmi, il primo ha parlato di un peso del fisco che può favorire la recessione. Siete d'accordo? Ha ragione la Corte dei Conti. E poi l'altro tema è quello della corruzione sistemica, che oltre al prestigio, all'imparzialità, al buon andamento della pubblica amministrazione, pregiudica anche la legittimazione delle pubbliche amministrazioni e anche l'economia della nazione. Sono appelli e allarmi che poi trovano, aggiungo, una consistenza, una risposta da parte della politica, secondo voi? Allora, 349-238-6666, i vostri messaggi. Allarme inutile, abbassare le tasse altrimenti la gente non lavora più, dice un ascoltatore, credo da Lampedusa. La Corte dei Conti ha ragione, la corruzione endemica nel nostro paese ha conseguenze disastrose, molto di più di quanto pensiamo. Purtroppo questo problema viene sottovalutato anche dagli onesti, dice Serena da Savona. 349-238-6666. Allora, Alessandra Schepisi. Sì, la Corte dei Conti invita anche a restare sul cammino del risanamento che porta al pareggio di bilancio, per quanto riguarda sempre i nostri conti pubblici, dice questo è un percorso ancora lungo, non privo di impegni gravosi, poi si proietta verso il futuro e lancia un monito al Parlamento e al nuovo governo. Sentiamo. L'impostazione deve dunque essere ripensata in funzione di un obiettivo di più lungo periodo, che non può non investire la questione della misura complessiva dell'intervento pubblico nell'economia. La linea della Corte è stata univoca lungo l'intero arco della strategia di risanamento. L'azione di riequilibrio dei conti pubblici costituisce nonché essere espressione di un solenne impegno europeo, costituisce non solo una precondizione perché l'Italia possa riprendere il cammino della crescita economica, ma è essa stessa un fattore di crescita. Al nuovo Parlamento e al nuovo governo spetta il compito di esplorare, restando all'interno del sentiero di risanamento che conduce al pareggio di bilancio di cui si è detto, le azioni in grado di generare una più equilibrata composizione di entrate e spese una volta superata l'emergenza finanziaria. Questa è la voce di Luigi Giampaolino su Radio 24 Italia in Controluce. Siamo, come si dice, sul pezzo. 349-238-6666. La corruzione a tutti i livelli, scrive Mariella, ha ormai minato l'Italia alle fondamenta. Aggiungiamo anche la pressione fiscale, ormai siamo spacciati. Maria Letizia dice che la peggiore è la piccola, diffusa, quotidiana corruzione, ad esempio gli uffici, controlli di polizia, eccetera eccetera. Ha ragione la Corte dei Conti, dice Marco da Pisa, siamo strizzati come dei limoni. Giuseppe, la Corte dei Conti ha ragione, ma siamo messi così male che sembra un messaggio proveniente da Marte. La Corte dei Conti dovrebbe intervenire prima che le leggi siano promulgate, non alla fine, quando i buoi ormai sono scappati, dice Giorgio Sartori. Guido da Bergamo, sono d'accordo, certo, non occorreva che lo dicesse la Corte dei Conti, lo vedevamo già da soli, va bene, se ne rendono conto che se ne parli, basta volere le soluzioni, ci sono, dice Raul da Udine. Non si potrà mai vedere ripresa senza ridare potere di acquisto, meno tasse potrebbero più consumi, più entrate per lo Stato. 349-238-6666, continuate a parlare, a dividervi, a raccontare su Radio 24. Allora, Alessandra Schepisi. Sì, come dicevamo, c'è il capitolo importante poi della corruzione. Per la Corte è un fenomeno ancora notevolmente presente, si parla di malaffare e illegalità che, oltre al prestigio e all'imparzialità, al buon andamento della pubblica amministrazione, pregiudicano l'economia della nazione. Giampaolino punta il dito contro un lungo elenco di malversazioni che si consuma ai danni della cosa pubblica. Ci sono le frodi finalizzate all'appropriazione illecita di denaro pubblico, utilizzo di strumenti finanziari derivati, emergenza rifiuti, mala sanità, opere incompiute, consulenze illecite, inefficienze nel settore scolastico, sprechi nella sanità, in particolare poi le frodi legate alla illecita utilizzazione dei fondi comunitari che hanno portato in Italia ad una sottrazione al bilancio dell'Unione Europea negli ultimi 10 anni di oltre 1 miliardo di euro. Allora sentiamo anche questo passaggio del Presidente Giampaolino. È da tempo che si è avuto modo di rilevare che la corruzione è divenuta da fenomeno burocratico pulviscolare, fenomeno politico amministrativo sistemico. La risposta pertanto non può essere di soli puntuali, limitati interventi, circoscritti per di più su singole norme del codice penale, ma la risposta deve essere articolata ed anch'essa sistemica. Inoltre, la metamorfosi del fenomeno criminale della corruzione ha comportato un significativo mutamento della natura del disvalore dei fatti di corruzione e del bene giuridico offeso. In particolare, la natura sistemica della corruzione ha comportato un ingigantimento del bene giuridico offeso e una rarefazione del contenuto di disvalore dei singoli comportamenti. Bene, grazie ad Alessandra Schepisi. Ancora qualche sms, non inviateci quelli elettorali, tanto non li leggeremo mai. O tagliamo la spesa pubblica con la mannaia, oppure siamo rovinati, dice Emiliano da Parma, e per la corruzione leggi speciali. C'è chi attacca Giampaolino, che dice è un po' noioso. Vabbè, come al solito analisi e commenti senza nessuna concreta proposta, dice Maurizio da Roma. Una corruzione a tutti i livelli, ma cosa sta facendo in realtà la politica? Un altro ascoltatore dice è un problema di mentalità, siamo italiani e ormai, secondo questo ascoltatore, è inutile. Va bene, vi ricordo che questo programma va in onda tutti i giorni alle 13.30 ed è condotto da me in collaborazione con la redazione di Radio 24. È un approfondimento sul Fatto del Giorno, lo potete riascoltare su radio24.it alla voce Italia in controluce. Siamo su Facebook, pagina gruppo, siamo su Twitter e la nostra email è controluce@radio24.it. Vi saluto qui Daniele Biacchessi.